9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ve lo dico molto francamente, avremmo sperato di poter togliere dall'inizio della nostra sigla questa telefonata del nostro ascoltatore Angelo da Bergamo abbastanza presto con la formazione di un nuovo governo. Evidentemente la teniamo ancora perché insomma si sta ancora là a giocare, la cosa è abbastanza evidente. Oggi, come si diceva, parliamo naturalmente della situazione politica perché insomma non si può non parlarne. Anche su questo aspettiamo le vostre telefonate all'800 24 00 24. E però ci concentriamo anche sulle cose. Oggi arriva in aula alle 15 la relazione del governo sulle variazioni di bilancio. L'approvazione di questa relazione è propedeutica, o meglio, senza di quella non si può fare in realtà, all'approvazione da parte dello stesso esecutivo del decreto per dare il via libera ai pagamenti finalmente della pubblica amministrazione alle imprese. Le imprese creditrici dello Stato sono il 25% del totale, una cifra pazzesca, un numero pazzesco. Se volete ci potete chiamare 800 24 00 24 per intervenire in diretta, potete scrivermi su Twitter se volete, Simone Spezia, così leggiamo anche qualcosa da là. Un'altra precisazione, sapete, insomma ormai lo sapete, non sono un tipo da introduzioni lunghe, però una precisazione la voglio fare. Ci avete scritto come mai non ospitate o ospitate così raramente esponenti del Movimento 5 Stelle. Guardate che non è che non ci si prova. Ieri abbiamo chiesto un'intervista con Azzurra Cancelleri che su questo provvedimento, il provvedimento che arriva oggi in aula, è la relatrice di minoranza. Chissà di quale minoranza e quale maggioranza stiamo parlando, questo non è ancora chiaro, però diciamo che è relatrice di minoranza e non abbiamo nemmeno ricevuto risposta. Allora, giusto per essere chiari, qua cerchiamo di stare sulle cose, di non parlare o di parlare molto raramente di politica politicante, come viene chiamata con una brutta espressione. Il Movimento 5 Stelle dice che di queste cose vuole parlare. Bene, questo spazio, questa trasmissione è aperta. Va bene, da questo punto di vista. Vogliamo sentire l'opinione, ma proprio per correttezza giornalistica e professionale, di chi in questo momento rappresenta il 25% del paese. E riteniamo, in tutta franchezza, che lo stesso Movimento 5 Stelle lo debba, come atto di rispetto alle persone che lo hanno votato, far sentire la propria voce sui temi, sulle cose che sono quelle di cui parliamo oggi. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto. Buongiorno a Marco Causi del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, è relatore di maggioranza, appunto, però non si sa esattamente che cosa voglia dire in questo momento questa definizione, appunto, della relazione del governo che appunto verrà presentata, arriverà oggi in aula, ed è anche componente della commissione speciale, questa commissione che sta cercando di lavorare, commissione speciale per il controllo degli atti di governo. Com'è che si chiama esattamente, Causi? Commissione speciale per l'esame degli atti del governo. Per l'esame degli atti del governo, perfetto. E Raffaello Vignali del PDL, che è persona, come sapete, l'abbiamo ospitato altre volte, insomma, ai microfoni di Radio 24, anche abbastanza spesso, è anche lui componente della commissione speciale ed è persona che si occupa attivamente, tra i pochi, devo dire la verità, e con molta energia del tema delle imprese. Vignali, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Causi, inizierei da lei. Verso che decreto andiamo? Che tipo di decreto andiamo? Che idea vi siete fatti? Che cosa porterete in aula oggi? Beh, oggi si porta in aula un aggiornamento dei quadri di finanza pubblica. Non era mai avvenuto che ci fosse un aggiornamento di questo tipo fuori dal documento di economia e finanza e fuori dalle usuali note di aggiornamento che si fanno a settembre. Quindi già il fatto stesso di avere un atto di questo tipo dimostra l'emergenza in cui siamo. Il contenuto di questo documento è in pratica una sorta di autorizzazione a fare una manovra che anche forse soltanto qualche mese fa sarebbe stata impensabile, e cioè ad acquisire da parte dello Stato sovrano quasi 32 miliardi, quasi 40 miliardi di liquidità tramite emissione di nuovo debito pubblico, e questi nuovi titoli pubblici che verranno emessi saranno interamente destinati a pagare 40 miliardi di crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, 20 miliardi nel 2013 e 20 nel 2014, quindi una forte iniezione di liquidità per l'economia. All'interno della relazione però ci sono naturalmente anche una serie di raccomandazioni politiche all'esecutivo, tra cui su questo appunto c'è stato anche lo stimolo del Movimento 5 Stelle, va detto, anche se in realtà era mi sembra di capire un'idea condivisa, di cercare di girare tutto o il più possibile direttamente alle imprese in termini di liquidità, o quantomeno prima alle imprese. Ma guardi, la Banca d'Italia stima che i pagamenti che le imprese italiane attendono dal settore pubblico siano pari a 91 miliardi di euro. Di questi 91, peraltro, un terzo, dice sempre la Banca d'Italia, vanno considerati fisiologici, quindi normali flussi fisiologici di credito commerciale. E inoltre 11 sono già stati scontati dalle imprese pro soluto presso gli istituti creditizi. Nella mia relazione oggi pomeriggio, a nome della maggioranza della Commissione che mi ha dato questo mandato, ma credo in queste cose di tutta la Commissione, proporrò all'Aula che nell'atto di indirizzo che oggi l'Aula approverà ci sia un mandato molto forte al Governo per fare delle cose che peraltro Grilli, il Ministro Grilli, ha già anticipato, cioè per esempio nella graduatoria di questi pagamenti privilegiare, mettere prima in graduatoria i crediti ancora non ceduti pro soluti e mettere dopo i crediti già ceduti alle banche. Insomma, questi 40 miliardi sono soldi che devono andare al sistema delle imprese a sostegno dell'economia reale. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete potete scrivermi su Twitter Simone Spezia, eventualmente anche gli sms ce l'abbiamo sempre quelli. Allora Vignali, mi sembra che su questo ci sia concordia, insomma io leggo al di là insomma delle questioni generali, no? Leggo dichiarazioni infiammate da parte di esponenti del suo partito, infiammate non a caso, insomma, no? La casa brucia, ha detto Alfano, e però in realtà mi sembra che il Parlamento stia cercando di lavorare, insomma su queste cose si possono trovare dei punti comuni. Credo proprio di sì, anche il fatto di aver fatto un atto unitario tra il PD Sel, Monti, Lista Civica, il PDL e Lega, credo che dica anche del fatto che si possono fare insieme le cose quando riguardano direttamente i bisogni reali del nostro paese, e questa vicenda dei pagamenti è una questione veramente che non si può rimandare, una questione tragica, cioè che oggi le imprese muoiano per credito è veramente una cosa assurda. Da questo punto di vista, insomma, gli spazi ci sono, fra l'altro con l'onorevole Causi abbiamo fatto insieme a luglio scorso il decreto crescita, abbiamo lavorato benissimo insieme, cioè quando si affrontano i temi che interessano realmente alle persone, alle imprese di questo paese, secondo me si possono trovare le dovute mediazioni, non nel senso di inciuci o di accordi a ribasso, ma appunto trovare un punto alto per fare cose che servono effettivamente al paese. È abbastanza curioso, Alberto Orioli, che proprio in una fase come questa, nella quale la tensione politica, no? La tensione politica è ai massimi, comunque insomma, si sia arrivati a questo punto, nel senso che è una soluzione alla quale probabilmente si doveva pensare prima, in tutta sincerità, perché probabilmente i mercati in realtà già scontano quel debito, nel senso che magari non viene scontato a livello europeo, no? Non viene contato il nostro deficit e nel nostro debito, però in realtà i mercati lo scontano, quindi tutto sommato si poteva pensare prima. Sì, assolutamente, sembra assurdo che appunto l'Italia ponga soluzione a un problema che è aperto da tempo, su cui i giornali parlano da molti mesi. Il Sole 24 Ore sta facendo una campagna da più di un anno su questo tema che è francamente scandaloso e ha creato un blocco della domanda interna e della liquidità e ha completamente sfalsato il meccanismo di domanda e offerta nel sistema economico, e ci si è posto mano solo adesso. Io temo che lo shock del voto italiano abbia indotto un più miti consigli anche in sede europea e abbia consentito quindi anche al governo Monti, seppur praticamente esautorato, di poter insistere con Bruxelles per avere l'ok e il via libera a un allentamento dei parametri di deficit e di debito, anche se secondo me questo tipo di strategia si sarebbe potuta mettere in campo molto prima e probabilmente si sarebbero tolte anche molte delle argomentazioni del profondissimo malcontento che l'elettorato italiano ha riproposto nelle urne, evidentemente. Quindi c'è una responsabilità non banale da parte dell'esecutivo Monti nel non aver dato impulso alla cosiddetta fase 2 dell'attività del governo, quella per l'appunto concentrata sullo sviluppo e sul rilancio della crescita e soprattutto della domanda interna, in modo da rivitalizzare l'economia. Io credo che questa cosa si poteva fare prima e probabilmente avrebbe avuto un grossissimo effetto anche sull'esito del voto. Perché tu dici che, per dirla proprio brutalmente, il 5 Stelle ha pescato molto là dentro, insomma, tra le aziende in sofferenza. Non a caso molti voti sono nel nord, nel Veneto, sono transitati dalla Lega, dal PDL, da quel famoso che chiamavamo blocco sociale dei piccoli e medi imprenditori al 5 Stelle. Sì, io credo che Grillo e il suo movimento abbiano intercettato moltissimo del voto di protesta pura, cioè ai limiti dell'invettiva e dello sberleffo, direi quasi, se non sembra irriverente, ma è un'indicazione di protesta to court che appunto doveva servire come voto antisistema per il tipo di inazione e di errori nella gestione soprattutto della politica economica, della politica sociale, della seconda parte del governo Monti, io direi, che peraltro si trascinava naturalmente i difetti di una stagnazione anche nell'iniziativa politica, soprattutto rivolta allo sviluppo, che partiva da molto lontano e coinvolgeva con responsabilità diverse tutte le forze politiche. Ma io credo che questa cosa sia stata molto rilevante. Torniamo alle cifre, se forse è utile. 91 miliardi la stima della Banca d'Italia definitiva sull'anno 2011, quei dati noi li portiamo anche a 100 miliardi, perché la stima dei mancati pagamenti con due anni in più è sicuramente più alta. Sbloccare, cioè, quindi 100 miliardi, voglio dire, sono quasi 10 punti di PIL, non cifra più, cifra meno, ma insomma un'entità che manca al sistema economico in termini di liquidità e quindi di sangue nella circolazione della domanda e dell'offerta dell'economia, fondamentale, senza la quale evidentemente si scassano tutte le regole che presidiano alla normale gestione della domanda e dell'offerta e del pagamento delle forniture. Questo sistema ha creato una distorsione per cui le grandi imprese, che riescono ad avere margini e capacità persuasiva, diciamo così, verso i loro subfornitori medi, si scaricano il mancato pagamento della pubblica amministrazione sui subfornitori, che a loro volta scaricano il peso di questa mancati incassi sui fornitori più piccoli, con il che si crea un abominevole sistema economico in cui le piccole e piccolissime imprese rischiano di fare da banca ai grandissimi gruppi, che è un assurdo. Naturalmente le piccole imprese non hanno la forza per poter svolgere questo ruolo, e tanto è vero che hanno lasciato sul campo moltissimi caduti, molte piccole e piccolissime imprese che lavorano con committenze per lo più pubbliche e sono finite in questa rete dei mancati pagamenti, nonostante avessero margini industriali perfetti, diciamo così, di azienda sana, hanno dovuto portare i libri in tribunale perché non ricevevano i giusti pagamenti che avrebbero dovuto ricevere. Non dimentichiamo che il pagamento medio per un'azienda che lavora in sanità oscilla tra i 300 giorni e i 600 giorni della Calabria. Quindi è molto difficile fare impresa con delle condizioni di questo genere. Nel momento in cui le banche non ti garantiscono quella giusta fluidità nell'accesso alla liquidità e all'accesso ai fondi, che potrebbe in parte compensare questa distorsione pubblica, diciamo così. Quindi è davvero, fare impresa oggi è davvero da eroi, diciamo la verità. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Marco ci chiama da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Niente, io volevo semplicemente dire questo: a me pare che questa questione, pur rilevante, dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione rischi di rilevarsi, da un lato, un bicchiere in uno stagno, nel senso che le problematiche dell'economia sono molto più basse, dall'altro avrà comunque un impatto sul debito e sugli interessi e sullo spread, quindi è tutto da vedere alla fine come questa questione andrà. Però io non sento mai parlare di un grande progetto per il taglio delle spese che possa portare ad una decurtazione del cuneo fiscale di almeno 10 punti, ma nell'arco di 2-3 mesi al massimo, perché l'economia muore, sta morendo. Forse non c'è, io ho l'impressione che non ci sia una percezione vera e propria di come la società sta vivendo questo momento. Secondo me molte persone di queste che stanno al potere vivono in un'altra dimensione, probabilmente non hanno una percezione esatta, non lo so, ecco, io vi pongo il problema. Poi grazie Marco. Inizierei a far rispondere Vignali su questo, su entrambi i fronti, perché tra l'altro ci scrive un ascoltatore su Twitter, mi scrive Marco Bianchi, 20 più 20 miliardi in 2 anni di crediti già certi ed esigibili, ma di cosa stiamo parlando? Nel senso, anche qua il ragionamento è un bicchiere in uno stagno, come ci ha detto Marco. E dall'altra parte dice, signori, voi non avete la percezione di come stia morendo il paese dal punto di vista economico, e forse questo spiega anche il risultato elettorale vostro e del Partito Democratico, Vignali. Ma guardi, io che la situazione sul fronte delle imprese, non solo, anche delle famiglie, ma insomma, partendo dalle imprese, sia tragica, ce l'ho ben presente non da oggi. Questo tema dei pagamenti, fra l'altro, io lo sollevo da almeno 5 anni, dall'inizio della scorsa legislatura, e non a caso nello statuto delle imprese avevamo messo la delega al governo a recepire anticipatamente la nuova direttiva europea sui ritardi dei pagamenti. È talmente evidente che la situazione non è drammatica, è tragica, e ha ragione Squinzi quando dice che sta finendo l'ossigeno, perché basta girare nei capannoni delle imprese. Io vengo da una zona dove di imprese ce ne sono tante, come la Brianza, e posso testimoniare la difficoltà delle imprese. Soprattutto il primo problema che segnalano tutte è quello della liquidità, e per questo anche al ministro Grilli, quando è venuto in audizione, io ho chiesto alcune certezze sul decreto, le abbiamo chieste tutti. Primo, che non ci siano decreti attuativi, cioè che non sia l'ennesima presa in giro, perché gli imprenditori non possono essere presi in giro ancora una volta, che ci siano tempi e modalità certe, che sia un obbligo per la PA. Su questo devo dire che la risposta che ho avuto da Grilli non mi ha soddisfatto, perché ha detto incentiveremo. No, non incentiviamo nulla, qui bisogna obbligare le pubbliche amministrazioni a liquidare. Bisogna prevedere anche il pagamento dei subfornitori, bisogna sospendere il DUR che ogni altro obbligo, perché è chiaro che se si fa il giochetto e si dice se non sei a posto col DURC non ti pago, quando magari uno deve 20.000 euro di contributi previdenziali ma deve avere 1 milione di euro dallo Stato, è veramente, sarebbe un'ulteriore presa in giro. Lo stesso vale secondo me anche poi sulle modalità. Adesso noi vigileremo molto sul decreto perché il pagamento possa essere veloce ed efficace. Sì, che non diventi un sistema di certificazioni folle come insomma quello che doveva portare, questo è la prima cosa. Bisogna che tutte le amministrazioni debitrici mandino velocissimamente, ci sia un obbligo pena sanzioni, come ad esempio il blocco dei trasferimenti, perché se non si fa così non si ottiene nulla, delle liste dei creditori e dei crediti, perché se no qui non se ne viene fuori. Poi un conto è le amministrazioni che possono pagare perché hanno la liquidità e per loro basta l'allentamento del patto di stabilità, come giustamente è previsto almeno dalle linee che sono nella relazione, ma sulle altre, ad esempio, io sono convinto che occorra fare un sistema centralizzato di pagamenti. Se noi iniziamo a fare dei fondi rotativi a livello locale, alla fine non ne veniamo più fuori. Quindi, in realtà sembra quello l'indirizzo del governo, Vignali, cioè quello dei fondi rotativi, mi sembra di aver capito. Vedremo quando arriverà il decreto, ma insomma bisogna stare attenti, perché poi bisogna fare i fondi rotativi, autorizzarli, certificarli, fare le convenzioni con le banche, cioè rischiamo di non venirne fuori. Cioè, qui quello che non si capisce, secondo me, è che bisogna che il governo abbia chiaro che non è una questione di mesi o di giorni, è una questione di ore. CGA Mestre fino a 2 anni fa, e credo che oggi la situazione sia peggiorata, diceva che un'impresa su 3 di quelle che falliscono fallisce per crediti, a parte che è assurdo in sé, ma non deve esistere una cosa del genere. Su questo noi credo vigileremo, faremo anche proposte, perché Questo possa proporremo anche che chi può possa compensare con qualunque debito che abbia nei confronti dello Stato, dello perché Stato. Questo è l'altro modo veloce per fare le cose. Di fondo, comunque, al di là di una questione economica, che è pure decisiva, io credo che sia un dovere morale per lo Stato pagare, soprattutto di uno Stato che pretende lealtà fiscale. La fermo, Vignali, perché adesso abbiamo una pausa, poi sentiremo anche Causi su questi aspetti. Ci scrivete: basta politici e professori, fate parlare la gente come Angelo, l'ascoltatore mettiamo in onda dall'inizio. Signori, gli ascoltatori, chiamate l'800 24 00 24, vi facciamo intervenire. Qua stiamo cercando di capire come possono andare le cose dal lato del decreto che dovrebbe consentire i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Possiamo anche sentire la gente su questo, e la sentiamo tramite il nostro numero verde, però poi sono i decisori politici, quelli che sono in Parlamento, quelli che sono al governo, che fanno le leggi o che le modificano. In questo caso, nel caso arrivi il decreto e non sia soddisfacente per la maggioranza del Parlamento, quindi interpelliamo queste persone non a caso, non perché chissà a chi vogliamo dar parole, semplicemente perché è la gente che poi decide. 9 in punto. Ci scrivete anche su Twitter. Le leggo. Le piccole imprese non fanno da banca solo con lo Stato, ma anche con la grande distribuzione. C'è chi esprime perplessità sul fatto di pagare con emissione di nuovo debito. Chi aggiunge alle parole del presidente di Confindustria Squinzi e ci dice: sta finendo l'ossigeno per le imprese. Voglio, prima di sentire altri ascoltatori, andare da Marco Causi del Partito Democratico, che abbiamo sentito all'inizio e finora non abbiamo sentito più, quindi lo riprendiamo sui temi che affrontavamo, sulle cose che diceva Vignali e sull'accusa anche che vi arriva, cioè avete una percezione scarsa di quello che sta succedendo nel paese. Forse non è un caso che il Movimento 5 Stelle sia arrivato al 25%. Mi scusi, giusto per chiarire, un ascoltatore ci scrive: non stiamo leccando niente del Movimento 5 Stelle, diciamo semplicemente che rappresentano il 25% del paese, e quindi prima o poi vorremmo ospitarli sui temi per sentire che cosa hanno da dire, punto e basta. Non stiamo leccando un bel niente. Causi. Ma secondo me ha abbastanza ragione Orioli quando ci ricorda che questa misura poteva forse essere fatta qualche mese fa, e lì c'è stato un grave ritardo dell'Unione Europea soprattutto, perché alla fine questa decisione, così come un'altra di cui adesso parlerò, rappresenta un po' una svolta negli orientamenti europei sull'Italia, una svolta diciamo espansiva, cioè l'autorizzazione all'Italia a fare un po' più di politiche espansive in senso antirecessivo. E forse questa autorizzazione poteva venire qualche mese prima, cioè prima che questi ultimi sei mesi mettessero in ginocchio il paese, perché noi non solo siamo in una recessione, in una doppia recessione fra il 2008 e il 2012, ma gli ultimi sei mesi, cioè da settembre in poi, l'ultimo trimestre del 2012 e il primo ancora del 2013, sono stati davvero devastanti. Tra l'altro, uno dei motivi per cui bisogna aggiustare gli scenari di finanza pubblica è che questi ultimi sei mesi di recessione hanno ridotto di molto le entrate e quindi ci costringono ad un abbassamento di tutte le previsioni un po' più ottimistiche che erano state fatte non più tardi di settembre dell'anno scorso. Però io da questa vicenda non ne derivo, come dire, un urlo nazionalistico, ovvero localistico contro l'Europa. Ne derivo la conclusione che l'Italia deve trovare dei momenti anche di forte condivisione sui suoi interessi di base, sui suoi interessi di fondo, e trattare in Europa con continuità, con capacità, invece probabilmente tocca avere anche un governo per trattare con continuità e tranquilli, insomma, e con forza in Europa, tutto insomma. Noi veniamo da anni in cui la vicenda europea è stata troppo tralasciata da chi ci ha governato per tanti anni, e sicuramente bisogna invece su quello essere molto più assertivi. forse questo sblocco europeo deriva dai risultati delle elezioni, questo non lo so, questo va chiesto ai ministri che trattano, ma certamente noi dobbiamo dire all'Europa che non è possibile che, come dire, le misure che hanno un pochino allentato le redini per l'Italia siano arrivate dopo sei mesi di questa recessione, si potevano fare sicuramente un po' prima. Sicuramente ce n'è un'altra, ce n'è un'altra di interessante, c'è un altro varco, un varchino più piccolo aperto su cui lavorare in futuro, e cioè si è strappato una piccola mini golden rule per gli investimenti, quindi la possibilità di non tenere conto ai fini dei famosi saldi di finanza pubblica di alcune voci di investimento pubblico, quindi la cosiddetta golden rule, che una regola che però vale molto poco, quindi abbiamo trovato una cosa di principio di importante, però vale molto poco, non più di 1 miliardo quest'anno, e bisognerà lavorare affinché questo varco si possa aprire ancora di più. Per quanto riguarda, io credo, soprattutto gli investimenti pubblici produttivi nell'immediato di crescita e di occupazione, quindi non le grandissime opere, i grandi cantieri che non finiscono mai, ma le piccole opere, le manutenzioni urbane, tutte le attività di investimento che producono commesse pubbliche per un tessuto molto ampio di piccole e medie imprese del paese. Intanto buone notizie, perché la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni, il famoso spread, è sceso nettamente a quota 340 punti, seppur alto, comunque un calo rispetto all'apertura, che è appunto una buona notizia, perché evidentemente al momento questa incertezza politica che c'è non sta influendo in maniera decisiva sui mercati, almeno per il momento. Voglio sentire qualche altro ascoltatore, ad iniziare da Patrizio da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Senta, vorrei dire, a proposito di soldi che lo Stato deve rendere alle aziende, ho l'esperienza di un'amica che è in ritardo col pagamento dei propri contributi INPS. Bene, gli è arrivata una raccomandata con intimazione di pagamento entro poco tempo. E con una grandissima multa e appena la reclusione. Io voglio dire, la sinistra ha dimostrato che non c'è più, la destra la vogliono i vari, c'è rimasto Grillo che sicuramente fa la rivoluzione attuando tutte le leggi, va bene, tante altre aziende andranno a capo all'insù. Grazie Patrizio, sentiamo Massimo da Roma, buongiorno. Massimo, ci sente? No, è caduto. Davide da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Non chi è? Massimo o Davide? Non... Davide, ecco, da Perugia, eccoci, Davide. Perugia, prego, buongiorno. Ho ascoltato l'intervento del politico e non mi è piaciuto per niente. Dico solamente una cosa. Quale dei due, Davide? Politico del PD. Ah, ok. Mio ex partito. Allora, 820 miliardi di spesa corrente nel 2012 in Italia. È possibile che una piccola impresa debba soffocare senza poter scontare il suo credito in tasse o contributi? Lei auspica un meccanismo di compensazione, Alberto Rioli, se ne è parlato moltissimo, anche Vignali ne accennava poco fa. Sì, se ne è parlato tanto, anche in sede di Parlamento si è tentato qualche volta di proporre delle forme di compensazione con i crediti IVA, con le questioni che riguardano i versamenti dei contributi previdenziali. Noi stessi abbiamo fatto campagna anche per sollecitare questo tipo di approccio rispetto alla tematica enorme dei mancati pagamenti. Purtroppo però ci si scontra sempre di fronte a dei muri invalicabili legati all'impatto della burocrazia nel sistema di governo delle leggi nel nostro paese. Probabilmente questo è uno dei grandissimi temi su cui bisogna incidere, perché l'impatto del moloch burocratico, delle procedure che diventano invalicabili, insormontabili, diventano dei dogmi, è una delle cose che impedisce poi lo sviluppo veloce del paese. E naturalmente dietro l'apparato di burocrazia ci sono delle legioni, diciamo così, di dipendenti pubblici, di spesa pubblica e tutto il resto. Non auspico un paese senza regole, senza controlli, ma un paese un po' più snello nelle sue procedure di velocizzazione di questo incontro tra domanda e offerta dell'economia, magari di potenziamento forte della fase dei controlli. Invece la fase dei controlli è sempre molto carente, affidata a delle task force molto limitate, per cui invece è sempre una burocrazia di tipo preventivo che ha ingessato il paese di fatto. Io capisco molto bene questo ragionamento e lo condivido, perché così come molti ascoltatori che ci telefonano e ci scrivono, e così come penso qualsiasi cittadino, ci divento matto, nel senso che dico, è una cosa semplice, hai un debito nei confronti dello Stato, hai un credito, annulla, le due cose sostanzialmente si annullano, invece è una roba che sostanzialmente non si riesce a fare. Ci scrive su Twitter Gianluca, imprenditore romano, azienda sana strozzata dai mancati pagamenti, e dice il governo non farà nulla, è ostaggio delle banche. Vedremo che cosa succederà in fase di decreto. Sentiamo sempre da Roma Massimo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, io ho una piccola sanitaria. Noi facciamo forniture a pazienti invalidi secondo il nomenclatore tariffario. Partecipiamo a delle gare, queste gare ci vengono aggiudicate, noi forniamo i prodotti, poi dopodiché presentiamo fatture alle ASL, l'ASL ce le certifica. Alla fine di tutto questo iter, l'ASL ci paga, non nel Lazio, siamo nella Roma, nel Lazio, almeno a 180 se non a 240 giorni. Questo per noi è chiaramente, dovendo pagare i fornitori dei prodotti e poi dovendo pagare tutte le tasse che dobbiamo subire, ci comporta un strozzamento nel cash flow veramente terribile per noi. Naturalmente, esattamente questo di cui stiamo parlando, e tra l'altro Alberto, come si diceva prima, in realtà è pure fortunato, stavo per dirlo, perché fortunato. Almeno ha il credito certificato, per cui può andare da una banca e farselo più o meno scontare. È chiaro che questa cosa però aumenta il costo della riscossione di quel tipo di credito, quindi anche questa è una follia, perché non ha senso. Però è più fortunato di altri che invece non hanno nemmeno la certificazione e quindi non possono nemmeno andare da una banca a sperare di farsi scontare la fattura. Sì, io mi riferivo alla fortuna anche per i tempi anche per i tempi, sì. Perché è paradossale, ma 180-240 giorni sono anche, è un tempo inferiore a quelli massimi, insomma, ci sono la mitica ASL Napoli 1, se non sbaglio, sì, per non parlare della Calabria. Per non sì. parlare della Calabria, andiamo a 3 anni e mezzo. Naturalmente. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, io tornerei a questo punto da Marco Causi, perché l'ascoltatore Davide da Perugia si rivolgeva proprio a lei, insomma, dice, tra l'altro un ex elettore del Partito Democratico. Io posso assicurargli e assicurare a tutti gli ascoltatori che la consapevolezza dello stato di crisi e di prostrazione del paese c'è in tutte le forze politiche. Noi come Partito Democratico siamo dentro la società e lo sappiamo benissimo. Il dramma è che sono venuti a galla tanti problemi che per troppi anni sono rimasti irrisolti, ma anche questa questione dei crediti che le imprese vanto nei confronti della pubblica amministrazione, ma non a caso anche la casistica che avete sollevato in questa trasmissione ci riporta al deficit sanitario della Campania, a quello della Calabria, a quello del Lazio, cioè a un problema storico di amministrazioni che hanno messo in bilancio soldi che non avevano. E quindi questo evidentemente poi nel corso del tempo ha portato a debiti nascosti, poi a piani di rientro e adesso a difficilissime operazioni di risanamento e quindi poi a centellinare la liquidità. Un paese che sistema queste cose è un paese che da un lato fa emergere questi debiti nascosti anche con un'operazione straordinaria come quella che affrontiamo nei prossimi mesi, però dall'altra parte è poi capace di tenere i conti a posto a tutti i livelli, a livello sanitario, a livello della spesa pensionistica, a livello della spesa per il personale dipendente della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Vorrei soltanto ricordare che anche se è stata durissima la manovra di aggiustamento che il paese ha fatto in ultimi 18 mesi, parlo di 18 mesi, quindi parlo sia delle manovre fatte nell'estate del 2011 dal precedente governo e sia di quelle fatte nel 2012 dall'attuale governo in regime di prorogatio, queste manovre hanno inciso anche sulla spesa, perché la riforma delle pensioni comporterà nei prossimi anni, perché va a regime anno dopo anno, comporterà quasi fra i 30 e i 40 miliardi di risparmi di spesa pubblica a carico in questo caso di due intere generazioni di italiani che ritarderanno in alcuni casi, come dire, non colpevolmente, quindi in alcuni casi andranno anche garantiti, il famoso problema degli esodati, però c'è un risparmio di spesa pubblica molto rilevante. Ma la cosa più complicata da fare è quella che poco fa dicevate voi, cioè far funzionare la pubblica amministrazione in un modo decente, che non, come dire, in cui si spende ciò che si ha, sia il giusto, non, quindi anche il sistema fiscale, impositivo, le tasse sono il giusto per pagare in modo efficiente i servizi. Per arrivare a questo però non bastano le urla, non bastano neanche pochi minuti. Questo provvedimento, che oggi un Parlamento in stallo dimostra comunque di poter portare avanti, è un primo passo, certamente di un cammino molto lungo che il paese dovrà intraprendere. Causi, ci chiedono via sms gli ascoltatori se a voi vi pagano 180 giorni ai parlamentari. Guardi, io poi sono un dipendente pubblico, quindi faccio parte due volte della casta, quindi sono un professore universitario, quindi mamma mia, due volte colpevole. Vignali, vi pagano 180 giorni a voi? No, non credo. No, ma appunto io resto dell'idea che appunto che sia un dovere morale dello Stato pagare nei tempi di legge. L'ascoltatore di Roma che prima diceva dell'amica che rischia la galera per il mancato versamento dei contributi è una cosa vergognosa, peraltro voi avete dato notizia poco tempo fa di una sentenza secondo me spettacolare che andrebbe anzi pubblicizzata, quella sentenza che annulla le cartelle di Equitalia per un'impresa che non aveva pagato, non ricordo se IVA o contributi fiscali, ma era creditrice nei confronti dello Stato di somme molto superiori. Ecco. Credo che questo ma sia non un si può fare, Vignali, ma non si può ma fare si semplicemente può fare. Un automatismo da questo punto di ma vista. Sì, io, guarda, mi scusi, io insisto, sì, mi sì. insisto perché ci divento matto su questa cosa. Non si può fare un automatismo. Ma dunque, allora, non tutte le imprese purtroppo hanno dei crediti, hanno dei debiti nei confronti, hanno dei crediti, fiscali soprattutto, molte sì, ad esempio, prendiamo i crediti IVA, sono circa 12 miliardi, questi 12 miliardi sono prevalentemente i crediti di chi… sono crediti IVA prevalentemente, sono quelli delle imprese esportatrici, cioè quelle che stanno andando bene. Restituire questo gettito alle imprese è decisivo per farle, perché sono quelle su cui noi puntiamo anche per aumentare il PIL. Per le altre bisogna arrivare a un sistema di normalità. Io questo discorso che sia troppo complicata la compensazione, francamente non lo accetto. Se un'impresa è debitrice verso diverse amministrazioni, ma è creditrice verso una, lo Stato usi Equitalia non sulle imprese, ma sulle altre amministrazioni dello Stato. No, non vedo perché, cioè, se devono non recuperare un euro sono l'idea. In grado di farlo, non sono in grado di fare la compensazione, non ci credo. Non male l'idea, devo dire la verità, di vedere gli uomini di Befera che vanno non in un'azienda, ma per esempio in un comune, in una provincia. L'agenzia delle uscite, sarebbe una cosa. No, ma non lo dico scherzando, No, ma vorrei vedere. Credo che fra l'altro servirebbe anche a far accettare un po' di più Equitalia agli imprenditori. Causi, nella relazione di oggi, perché non glielo dice al governo? Mettete l'automatismo, mettete questo automatismo nel decreto e non ci rompete più le scatole. No, ma questo lo proponiamo, però scusate, c'è una cosa concreta che si può fare adesso che prima non si poteva fare, perché finché mancava la liquidità, si era in un tappo perché alcune amministrazioni non potevano proprio, come dire, concedere il pagamento perché non c'era liquidità. Adesso che ci sarà un po' di liquidità, ancora non sufficiente, ma almeno un po' di liquidità, ci sono due notizie positive che si possono dare a tutti i vostri ascoltatori, e cioè numero uno, che c'è già un movimento molto ampio in corso affinché questi pagamenti vengano centralizzati, quindi non siano poi fatti da ASL per ASL o regione per regione, ma vengano inviate delle liste, naturalmente con la datazione e il privilegio di ciascun pagamento da fare, viste ad una entità centralizzata, al Ministero del Tesoro, che prende soldi sul mercato emettendo titoli e paga. Quindi un procedimento di centralizzazione, quindi non di spezzettamento fra diverse burocrazie. Forse da questo procedimento verranno esclusi, vedremo il decreto, i pagamenti da parte soprattutto di molti comuni che hanno già i soldi in cassa, quindi hanno già i soldi in tesoreria e quindi possono provvedere loro direttamente. E sicuramente l'esistenza adesso della liquidità permetterà anche di essere più arditi sulle compensazioni. Io sono d'accordissimo, tra l'altro ci sono dei meccanismi che erano stati previsti nel disegno di legge delega fiscale, nel disegno di legge di riforma fiscale, che purtroppo è crollato nel dicembre dell'anno scorso nella passata legislatura, che prevedevano appunto una forte semplificazione in tutti i procedimenti di compensazione. Questa è una cosa che io mi auguro si possa... Causi molto brevemente, voglio una risposta, la interrompo, voglio una risposta netta da lei e Vignali. Se nel decreto non fosse contenuta un'ipotesi di questo genere, la modificherete e chiederete la modifica per inserirla? Partiamo da lei, Causi. Netta e breve. Io credo che ci sia un'ampia maggioranza in commissione speciale per fare questo emendamento, ove il governo non seguisse gli indirizzi che oggi il Parlamento gli darà. Vignali. Ma è fuori discussione, io sto già lavorando addirittura a un testo, in modo che se poi il decreto non dovesse contenerlo, lo proporremo, lo faremo. Io, se c'è la disponibilità delle altre forze politiche, credo che questa sia una questione, ripeto, innanzitutto di civiltà e anche di moralità di uno Stato. Vi veniamo a cercare, eh? Credo che sia... No, io mi fido. Poi vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede in Parlamento, perché io su queste cose sto sempre. Tra l'altro, questa è una richiesta di tutto il sistema delle imprese, sia da Confindustria, le imprese di Rete Impresa Italia, i PICO, tutti. Quindi, insomma, ripeto, secondo me è assolutamente fattibile. Fattibile. Non si può porre una difficoltà tecnica quando appunto lo Stato per recuperare un euro sa come fare, quindi può fare anche il resto. Alberto Orioli. Sì, appunto, il problema è proprio quello delle difficoltà tecniche che vengono poste a questo tipo di razionalizzazioni fondamentali e imprescindibili. Ci dicono che le banche dati tra diverse amministrazioni non dialogano, quindi non c'è quell'utopia di un tasto che compensa una cosa che manca da una parte ed è in eccesso dall'altra. A maggior ragione è doppiamente colpevole perché, diciamo così, l'obiettivo di arrivare a un'amministrazione, a una gestione della cosa pubblica in termini tecnici di questo tipo, leggera, efficiente, interconnessa, è fondamentale per qualunque Stato moderno. Se questo non si è fatto è perché spesso il software sostituisce lavoro umano, ahimè, o lavoro umano a bassa professionalità e ne richiede lavoro a migliore professionalità. E questo è ancora di una volta il grande tema della burocrazia, della gestione della spesa pubblica. Anche questo è un modo di fare investimenti intelligenti per un paese. Romano ci scrive: se il decreto sarà viziato da tempi lunghi, la disobbedienza fiscale, mi scrive su Twitter, la disobbedienza fiscale per le piccole e medie imprese creditrici della pubblica amministrazione diventerà legittima difesa. Brevemente, Alex da Modena, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, grazie per avermi dato prego, la possibilità di parlare. Prego. Io chiamo, sono dato da Modena. Niente, allora vi spiego. Allora, noi abbiamo un'azienda da 40 anni di Modena che l'ha fondata mio papà, e questa azienda dà lavoro, insomma, decine di persone, d'accordo? Allora, noi ci sono arrivati tutti gli anni dal 2002, dal 2003, tutti gli anni fino a oggi, ci arrivano delle cartelle dell'INPS che mi arrivano a Pasqua, mi arrivano ad agosto, prima di Ferragosto, mi arrivano a Natale, e sono cartelle da 30.000 euro l'una, d'accordo? E loro i soldi li vogliono entro 60 giorni o anche 30 giorni. Benissimo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto causa, abbiamo vinto due cause contro l'INPS, siamo andati in Cassazione. Nel 2010 l'INPS si è fatta una legge, perché anche retroattiva, perché gli artigiani, i commercianti devono pagare la doppia contribuzione, d'accordo? Solo in Italia si paga sta roba qua. Poi, altra cosa, mio fratello ha una piccola attività. Ah, poi per quanto riguarda l'INPS hanno chiesto i soldi di mio padre, che è morto nel 2005. Ecco, anche questa cosa qua. Adesso stiamo aspettando che ci arrivano dopo tutte le altre cartelle, perché abbiamo perso la causa quest'anno. Aspetti lei, io ho un problema. Succede questo, che se non chiudo al secondo esatto nel quale mi dicono, tagliano proprio la trasmissione, cioè tagliano la voce. Quindi la devo salutare, la ringrazio per la testimonianza, anche Alberto che ci chiama da Milano, grazie per aver telefonato, non riusciamo a prendere la telefonata, magari nei prossimi giorni, insomma quando vuole, come avete sentito i microfoni sono sostanzialmente aperti. Grazie ad Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, Marco Causi del Partito Democratico, Raffaello Vignali del PDL, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Franco Piantanida in assistenza, un grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia ci sentiamo domani, vi lascio col nostro countdown. Ricordati! Mancano 89 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.